Vaffanciorro cazzo, vaffanciorro io continuo a rompere il cazzo, ma lei continua a dire di no, che se non le lascio stare, chiamerà la polizia. Quindi vaffanciorro cazzo baby, vaffanciorro cazzo yeah. Quindi vaffanciorro cazzo baby, vaffanciorro cazzo. Quindi vaffanciorro cazzo baby, vaffanciorro cazzo yeah. Vaffanciorro cazzo baby, vaffanciorro. Vaffanciorro, vaffanciorro, cazzo, vaffanciorro, vaffanciorro, cazzo, vaffanciorro, vaffanciorro, cazzo, vaffanciorro, vaffanciorro, cazzo, vaffanciorro, vaffanciorro, cazzo, vaffanciorro, vaffanciorro, cazzo, vaffanciorro, vaffanciorro, cazzo, vaffanciorro, vaffanciorro. Io le chiedo se vuole, vuole toccarmi, ma lei mi dice no. Poi le chiedo se io posso toccarle io, ma lei mi dice ancora no. Ma vaffanciorro cazzo baby, vaffanciorro cazzo yeah, vaffanciorro cazzo baby yeah, vaffanciorro cazzo. Quindi vaffanciorro cazzo baby, vaffanciorro cazzo yeah, yeah, vaffanciorro cazzo baby yeah, vaffanciorro cazzo. Quindi vaffanciorro cazzo baby, vaffanciorro cazzo yeah, yeah, vaffanciorro cazzo baby, vaffanciorro cazzo, vaffanciorro cazzo, vaffanciorro cazzo, vaffanciorro cazzo, vaffanciorro cazzo. Va, va, fanciorro.